calici che la bellezza infiola e là fuggevol, fuggevol ora s'inebria voluta liviarne dal cifre mitic che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va liviamo amore, amor fra i calici più caldi baci avrà che vi turba sto meglio ma in conta guisa ucciderete averve dopo cura dell'esser vostro e non potrei o se mia foste custode veglierei per vostri soavidi ne dite sia alcuna cura di me perché nessuno al mondo va nessuno tranne sol io è vero sì grande amor dimenticato mio vivete e voi buon cor un cor sì forse e a che lo richiedete ma se ciò fosse non potreste allora cegliar dite davvero io non vi inganno da molto è che mi amate ah sì da un anno un felice et Croce delizia, delizia al cor. Ah, se ciò vero concedemi, sola mi sta io offro. Amare, mi so, un così meno il tuo amore. Io sono franca, scenua, andrà a cercare Partite, parto, addio, io. sui colori a lui dei, e dei sui colori a vulghi, lui che modesto e vigile, allegre soglia ascesi, in uomo febbre accesi, distando mio l'amor. Oh, quell'amor, quell'amor che palpita Yeah.

ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Annina, donde vieni? Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Era le nor cavalli cocchie quanto ancora possiede. Che mai sento? Lo spendio è grande a viver qui solinchi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna? Vita Luigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il puto valgo a riparare ancora. Alfredo per Parigi or partiva e tornerà pria che tramonti il giorno. Dir bel m'impose e strano. Per voi sta ben. In breve giungerà un uomo d'affari. Entri all'istante. Siccome una ancora, e io che ispira giovine. respira giovine, ed io che spira tra i detti angeli tu. Oh, parlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allora. Conosca il sole.

chi dal cor ti cancellò di Provenza il mare suol al natio fulgente sol qual destino ti furò qual destino ti furò al natio fulgente sol ora menta pur nel duol di gioia te brillò e che pace cora sol su te splendere ancor può e che pace cora sol mia, ci pensate la tutta è falsità. La famiglia c'è meglio, canta quando viso, partizio, viso, poppi, canta. Marchese mio giudizio vi farà mentire, Marchese mio giudizio vi farà mentire. Cortese invito, grata vi son barone. fermo e qui il vedete. Cielo, è vero, il vedo. A voi non un sol detto si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Oh, perché? Un quattro ancora hai vinto, sfortuna nell'amore, fortuna recca il gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera e l'oro va bagnato, o sciago del tra i campi ritornerò beato. Solo no. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la vi sfida c'è. Alla manca cento, un asso, un falte, hai vinto il doppio sia, un quattro, un sette, ancora, pur la vittoria mia. Bravo Valverno, sorte, è tutto per Alfredo. Hai miglior la spesa, hai barangio il vedo. Seguite pur, la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo, e via l'esempio. Pietà grandio, pietà grandio di me. Se continuar va grada, per ora non possiamo. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici. Poscia sarò qual bramerete. Andiam. Andiam. Ma sciagurai

ricompensa avrai. Ma tu la mio, di più non lacerarmi troppo rimorso. ansia si terribil, qui non mi trasentia, qui non mi trasentia. Si una pudica vergine degli anni suoi di fiore a te donasse il cuore sposa di sia, sposa di sia. 今天的歌舞剧场就到这里。